ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Quando Garibaldi vide scaricato completamente e felicemente il Lombardo, esclamò: «Va bene!». Quindi scese giù dal tamburo e disse a me, ad Andrea Rossi ed al capitano Castiglia: «Montiamo su quella lancia!». Una lancia stava aspettando con due marinai a piè della scaletta. Montati che fummo, i marinai vogarono verso terra, ma avevamo percorsi pochi metri quando il generale s'alzò e, battendosi con la mano alla fronte, disse: «M'ero scordato il meglio, torniamo sul Piemonte!». Con 4 o 6 remate fummo sotto il Piemonte. Montammo. Non indovinai quale scopo potesse avere quella tornata. Garibaldi scese sotto coperta e vidi che, aiutato da 2 compagni, aperse i rubinetti della macchina. Ciò fatto, tornammo sulla barca e Garibaldi gridò: «Al Lombardo!». Andammo verso il Lombardo, che era vicinissimo alla corvetta napoletana, e mi parve che andassimo proprio in bocca al lupo, e dicevo tra me: «O quest'uomo si crede fatato, o vuol morire innanzi sera». Salì Garibaldi sul Lombardo con Rossi e Castiglia, dicendo a me: «Voi non siete del mestiere, aspettateci!». Aspettai in barca e ammantai un remo. Dopo alcuni istanti tornò il generale coi 2 compagni e con Augustelia, che era rimasta ancora sul Lombardo. «A terra!» ordinò Garibaldi. Vogammo con quanta se n'aveva nelle braccia. «Peccato!» diceva Augustelia. «I nostri vapori son perduti». «Perdiamo 2 carcasse!» rispose Garibaldi. «E prendiamo la Sicilia!». «Chi ci perde in questo baratto?» Ma accorsi che i 2 vapori non erano sprofondati granché. Il Piemonte era colato giù, ma non tanto quanto avremmo voluto noi, per impedire che i borbonici ce lo portassero via. Il Lombardo, che aveva la chiglia già confitta per metà della lunghezza nella sabbia, si sommerse un po' a poppa e si piegò sul fianco. Intanto eravamo giunti al piccolo molo che chiude il porto di Marsala e dove sorge una torre. I 1000 stavano schierati in bell'ordine mentre Tur, col suo 50, correva esplorando per la città. Appena il generale pose piede a terra, Giorgio Manin spiegò la bandiera. Un lungo grido di gioia accolse l'audace e fortunato condottiero, il quale, come ci ebbe confortati a procedere ordinati e con passo tranquillo, avvertendo che gli inglesi ci guardavano, si avviò lentamente sul molo, appoggiando sulla spalla destra la sciabola, impugnata dalla parte della punta, e con la cintola penzoloni. Intanto, un altro legno borbonico a vapore era giunto a mezzo tiro dal molo. Un altro s'avvicinava a tutta corsa, rimorchiando la grossa e panciuta partenope. Avevamo fissi gli occhi su quei visitatori pericolosi e non sapevamo che cosa pensare del loro inspiegabile silenzio, quando a un tratto, dalla prua del più vicino, sfolgorò un lampo e boom, una gran botta, e una granata passò ronzando sulla testa del generale e cadde lontano pochi passi. «Un gran viva l'Italia!» rispose da 100 e 100 bocche a quel primo segno di battaglia. E un volontario, fattosi sulla granata, la prese in mano e la recò al generale dicendo: «Ho l'onore di presentarle il primo fuoco». Tosto, a quel primo colpo ne seguì un secondo e poi un terzo. E non andò molto che i colpi divennero innumerevoli, aggiungendovisi quelli della partenope che lanciò intiere bordate. Come Dio volle, tutti quei tiri caddero a vuoto, sia perché le granate vecchie e guaste raramente scoppiavano, sia perché difficile era l'assestarli da legni ondeggianti su quella spiaggia bassa e quasi a livello dell'acqua. Procedevamo a 4 a 4 e cantando, quando ecco una botta di mitraglia fragellar le onde, a 50 braccia forse dal generale. Questi, veduto il pericolo, gridò: «Sparpagliatevi tutti!». Ubbidimmo. Giunti che fummo su una vasta spianata, che è l'opera delle arene che affluiscono in quel porto, la tempesta delle palle divenne così fitta che il generale ordinò più volte: «Ventra a terra! Ventra a terra!». Grosse bombe frullavano per l'aria e rimbalzavano per terra, scoppiando poi con indicibile frastuono. Una di queste bombe cadde presso a noi, in una gran pozzanghera, e qui vi si spense irrorandoci di spruzzi. Un'altra scoppiò non lungi dalla porta e uccise un cane, vittima unica ed innocentissima di quel giorno memorabile. Eravamo sempre lontani dalla porta della città, quando Garibaldi mi disse: Voi andate subito a cercare il console sardo e ditegli in mio nome che dichiari proprietà nazionale i nostri due vapori e convochi il corpo consolare. Mi parve di non aver capito bene e aprivo bocca per pregarlo che mi spiegasse, ma egli mi prevenne col dirmi: «Sì, dite al console che se i borbonici pigliano, tentano pigliare i due vapori, protesti e faccia appoggiare la sua protesta dagli altri consoli». Trovai la pretesa un po' singolare, ma non era quello il tempo di discutere. Mentre cercavo qualcuno che mi guidasse in città, comparve solo, in mezzo al rombo delle granate e delle bombe, un frate. Era un fratone vecchio, ma ben pasciuto e ben portante, che col cappello in mano ci venne incontro e ci diede i benvenuti. Qualche voce gridò: «Che vieni tu a rompere gli Zebidei, o frate? Accidenta, frati!» Ma Garibaldi alzò la mano per imporre il silenzio e disse: «Fratino, che cercate voi? Non sentite come fischiano queste palle?» E il frate a lui: «Le palle non mi fanno paura, sono servo di San Francesco Poverello e son figlio d'Italia». «Siete dunque col popolo?» domandò il generale. Col popolo», rispose il frate. Era capitato in quel punto un giovine marsalese che s'offerse di condurmi alla casa del console sardo, che si chiamava Don Gennaro o Raffaele Lipari. Mentre dunque Garibaldi s'avviava per entrare in Marsala per la porta che s'apre in faccia alla marina, io dovea entrarvi per la porta che guarda la terra dal lato di Levante. Appena fui entrato in città, qualche curioso mi si fe incontro che, udendomi gridare «Viva l'Italia!» ed acclamare Vittorio Emanuele, spalancò tanto d'occhi e tanto di bocca e poi tirò di lungo. Le strade erano quasi deserte. Finestre ed usci cominciavano a serrarsi in gran fretta, come suole nei momenti di scompiglio quando la gente perde la tramontana. Tre o quattro poveracci mi si accostarono stendendo la mano e chiamandomi eccellenza, non altrimenti che io fossi giunto in città per mio diporto ed avessi la borsa piena per le opere di misericordia. Si sarebbe detto che quella gente, colta così di sorpresa, non avesse capito un'acca del grande avvenimento che si compiva in quel giorno. Mentre però ci incamminammo verso il castello, un centinaio di persone ci fu intorno pregandoci si mostrasse loro Garibaldi. Lo mostravano a dito, ed egli si volgeva a loro e salutava con grande affabilità. Ma quella gente scuoteva il capo e ci diceva, in sua africanissima favella: «Come? È quello Garibaldi? Oh, non lo crediamo, non può essere!» Era inutile confondersi. Non poteva entrare in quelle zucche che un uomo senza giubba lunga, senza oro indosso, senza un gran cappel piumato sulla testa e senza croci né cordoni, potesse essere l'uomo famoso il cui nome s'andava ripetendo in prosa e in musica da un capo all'altro della terra. Nel rientrare in Marsala, ci imbattemmo nel colonnello Sirtori, il quale avvertì il generale che le compagnie di Cairoli e di Bixio si andavano giù distendendo sulla linea degli avamposti e che il porto era guardato tuttavia dai carabinieri genovesi. Ma non era a sperarsi che i 30 o 32 bravi giovinetti, quanti erano allora, fossero da tanto da impedire uno sbarco da legni borbonici, che si credeva imminente, e da far sì che si astenessero i comandanti di quei legni dal rubarci i vapori e i cannoni rimasti dove erano stati lasciati 4 ore innanzi. Garibaldi, nel sentir che i cannoni correvano pericolo d'essere presi, non lasciò a Sirtori campo di perorare più lungamente e si avviò verso il porto seguito da me e da altri pochi che in tutti non fummo 20. Le navi borboniche non s'erano state dal tirare ogni tratto qualche cannonata, non so se per levarci la voglia, se l'avevamo, di tornar su porto o per invitarci ad andarcene via da Marsala al più presto possibile, dichiarandoci, cotonfi, esser quello un mal albergo e non potervici dimorare senza star di continuo allerta e con tanto d'occhi aperti. Appena ci affacciammo fuori della porta, le cannonate di rare che erano divennero così fitte da parerci peccato che si mettesse in sì gran rischio il generale, mentre noi soli potevamo avvicinarci alle artiglierie e trascinarle, se i cannoni nemici lo concedessero, sin dentro le mura della città. Perciò lo pregammo che tornasse indietro, ma egli rispose secco secco: «Non vi incaricate di me, pensate invece a non star qui tutti in un monte». Ci dividemmo in brigatelle di 3 o 4, ed io non mi scostai dalle sue calcagna. Fatti appena pochi passi, una granata rimbalzò così vicina a lui che tutti ci guardammo in faccia, muti, atterriti, quasi volessimo dire: «Che faremo noi se quest'uomo ci muore?» Garibaldi s'accorse di quel che volevamo dirci e sorrise. Intanto le palle ci mugghiavano agli orecchi, sempre con maggior furia e maggior quantità. Io tolsi Sirtori in disparte e lo scongiurai che pregasse il generale a pensare a noi se non voleva pensare a se stesso, e non gli paresse duro il mettersi un po' al riparo da quella bufera infernale mentre noi daremmo opera a mettergli in salvo i cannoni. Sirtori fu uomo al quale non si levavano di bocca le parole, neanche col cavatappi. Mi rispose con un cenno del capo, facendomi intendere che io aveva 100.000 ragioni, e s'avvicinò al generale per dirgli con la bocca o cocenni il fatto suo. In quel momento un'altra granata picchiò in terra ed esplose a pochi passi da noi. Garibaldi era rimasto ritto, aspettando tranquillamente lo scoppio, come se avesse in animo d'essere invulnerabile. Eravamo vicini di poche braccia ad un ammasso di terra che si sarebbe preso per una trincea. Io dissi a Tur: «Colonnello, noi avremo sull'anima la vita di quell'eroe e saremo i più dolorosi uomini di questo mondo». E senza dar tempo a Tur che mi rispondessi, mi fece accanto a Garibaldi e dissi: «Generale, faccia il sacrificio d'accostarsi a quel riparo. Pensi a noi se non vuol pensare per sé». Garibaldi mi dette una grande occhiataccia, ma poi si fece anch'egli dietro il riparo, tenendo però sempre alta la testa e sollevata, così da vedere i fatti suoi e da non perder d'occhio ciò che accadeva nel mare. E fu veramente un miracolo che Garibaldi facesse quel sacrificio, non tanto lieve per quell'audace natura d'uomo, che al disprezzo della vita accoppiava una meravigliosa fiducia nella sua stella, e quasi parea esser certo che la palla che doveva coglierlo non dovesse ancora esser fusa. Dico che fu un miracolo perché, proprio in quel punto, una grandine di palla lanciata dalla Partenope ci passò sul capo. I legni borbonici non stavano sulle ancore, ma volteggiavano in vicinanza della spiaggia, cercando evidentemente di disporsi in tal maniera da proteggere contro ogni assalto 4 grosse barche, cariche di soldati, che vogavano verso il porto. A quella vista Garibaldi fece atto di levarsi in piedi, ma Tur e Sirtori lo trattennero. Allora egli gridò: «Per Dio, non c'è tempo da perdere, salvate i cannoni o ce li pigliano!» Poi soggiunse: «Via, bandi, voi che siete il più grosso, date il buon esempio!» Saltai su come una molla e schizzai fuori dal riparo. Gli altri, meno Sirtori e Tur, vennero tosto meco e cominciammo a trascinare i cannoni alle cui carrette stavano avvolte le corde che avean servito ad assicurarli a bordo perché il dondolio non li scostasse dai boccaporti. Era meco a trascinare la colubrina di Orbetello Giacomo Griziotti, già ufficiale di artiglieria nei cacciatori delle Alpi. Costui, vedendo già vicina una barca carica di borbonici che precedeva le altre, mi disse: «Che ti pare? Tiriamo a quei lati una cannonata?» «Tiriamola!» Griziotti pigliò una miccia e l'accese, mentre i due altri compagni nostri, deposte le funi, puntavano la carabina ed io li aiutavo. C'era il caso di veder la barca andare alle ballodole, con tutto il suo poco reverendo carico, e mi parve avere il Papa in tasca. Ma avevamo fatto i conti senza l'oste, perché Garibaldi, veduto quel che da noi si almanaccava, gridò: «Griziotti, bandi! Siete matti? Volete veder bombardata la città?» Mettemmo subito la coda tra le gambe e ripigliammo il nostro traino ridendo a più non posso. Mentre correvamo con le funi tese sulle spalle, capitò a tutta corsa un carabiniere genovese che, scorto Garibaldi, gli disse da lontano: «Antonio Mosto vuol sapere se può aprire il fuoco!» «Per Dio!» rispose Garibaldi. «Dite a Mosto che gli ordino di non lasciar tirare una fucilata!» E quasi non gli bastasse aver dato quell'ordine ad alta e chiara voce, mandò subito Tour alle case che avevamo in faccia perché tenesse le mani a Mosto e ai suoi impazienti compagni. Mentre questo accadeva, le quattro barche entravano nel porto e le fregate cessarono di tirare. I soldati borbonici gridavano «Urrà!» come se muovessero all'assalto e credevano a chiappar la luna, mettendo le unghie su quei poveri vapori del rubattino mezzo sprofondati e senza difesa. Giunte che furono le barche ai nostri legni, i soldati montarono su, vociando come tanti turchi, e calarono giù la bandiera del Lombardo, che sventolava ancora, e spiegarono da trionfatori il loro borbonico cencio bianco. Poi si dettero a rubacchiare, a sgocciolar bottiglie, gridando sempre come se avessero preso d'assalto la torre di Malakoff. Quindi, tornate sulle barche, pigliarono a rimorchio il Piemonte affondato soltanto di pochi piedi e lo trassero fuori dal porto, lasciando in pace il Lombardo, che non volle venire a galla né per Cristo né per Santi. Tutta questa comica scena, Garibaldi se la godette da cima a fondo, senza ombra di dispetto. E quando i cannoni furono salvi in città, e quando sul porto fu finito lo spettacolo, se ne venne via placidamente e rientrò tra le mura, fumando il suo sigaro, dicendo in tono di scherzo: «Abbiamo bruciato le nostre navi». Sertori era il capo di stato maggiore e Tour era l'aiutante generale. Dopo aver obbedito a Garibaldi, io dovevo, secondo ogni buona regola, obbedire a loro due. Stavo assaporando un bicchierino di Marsala in una delle pochissime botteghe rimaste aperte in quel giorno, quando Tour mi chiamò e mi dette ordine d'andare a vedere se la guardia del castello fosse al suo posto e facesse il suo dovere. Ero stanco morto e digiuno dalla mattina, ma bisognava obbedire. Andavo dunque con santa rassegnazione verso il castello, quando Sir Tori mi venne incontro e mi disse: «Vada subito agli avamposti e veda se le due compagnie hanno esatta la parola. La parola è questa: San Giovanni, Genova». «Andrò», risposi, «ma prima debbo recarmi al castello». «E chi le ha ordinato di andare al castello?» «Il colonnello Tour». «Obbedisca a me e non al colonnello Tour. Il capo di stato maggiore sono io», ripigliò Sir Tori, che era ombroso più di un cavallo. Salutai e tirai oltre, e nell'andare dicevo tra me: «Fortuna che Alessandro è vivo. Se ei fosse morto, faremmo una brutta vita co' generali d'Alessandro». E non pensai male, che quei nostri caporioni non stettero in pace tra loro 24 minuti e cominciarono di buon'ora a guardarsi come il cane e il gatto. Camminai un bel pezzo e finalmente giunsi agli avamposti. Interrogai i soldati di Cairoli e questi avevano la parola giusta, e non ci fu un ette da ridire. Ma giunto che fui tra que di Bixio, trovai che invece di San Giovanni avevano Sant'Antonio. Erano, per verità, due grandi santi ambedue, ma non era quello il caso di scegliere liberamente tra santo e santo. Allora, dimandato dove fosse Bixio e saputo che era in una tal casetta, salii su per chiarire lo sbaglio, a ciò nella notte non accadessero qui pro quo. Nino Bixio stava col suo luogotenente Dezza sopra un lettuccio. Sì, l'uno che l'altro erano in camicia e in mutande, e stavano cincischiando su un galletto lesso. «Bixio», dissi, «i tuoi soldati non hanno esatta la parola, hanno scambiato Sant'Antonio per San Giovanni». Bixio strozzò il boccone e mi guardava co' suoi occhiacci, che nei momenti di furia parean quelli del sor Giovannino delle bande nere, come ce l'ha dipinti Tiziano. Sì, è proprio così, aggiunsi. Hanno sbagliato il santo. E Genova sta male senza il suo San Giovanni. Cani! Mormorò Bixio e si rivolse a Dezza quasi per domandargli: o come ita? Chiamiamo il furiere, disse Dezza, scendendo anche egli dal letto. Furiere! Furiere! Gridò Bixio senza dar tempo al suo luogotenente ad aprir bocca. S'aperse l'uscio della camera e comparve un bel giovinotto biondo. Era il furiere. «Hai barattato la parola, eh?» gli chiese Bixio con voce sorda, sorda, che parve un rantolo, e afferrando rapidamente un revolver che era lì presso sopra un tavolino ed alzato nel cane, ripigliò con gran voce: «Traditore, muori!» Dio volle bene al furiere, perché io e Dezza Lesti, come due gatti, fummo addosso al furibondo, e questi, assalito e stretto da noi, cadde giù per terra, e noi tombolammo giù su di lui. Il furiere fuggì come il vento. Io e Dezza ci rialzammo, e Bixio pure si rialzò. Appena fu ritto sulle sue gambe, ci squadrò a squarciasacche e poi disse: «M'avete messo le mani addosso, m'avete strappato la camicia, bocche de...» Seguì un vocabolo genovese che l'Accademia della Crusca non riferisce nel suo libro patrimoniale. Dezza ammiccò l'occhio ed io non mi mossi. Bixio ruggì come un lioncello e si gettò bocconi sul letto bestemmiando, e mi parve Ugolino che mordesse la nuca all'arcivescovo Ruggeri. Faceva buio quando tornai in città. Le strade erano scure e deserte. Però, di quando in quando, qualche allegra brigata di volontari rompeva quei canti il silenzio della solitudine e mi rammentava che io ero non in una necropoli, ma in una città generosa di vini celebratissimi. Tornato che fui dal generale, lo trovai che discorreva con Sirtori e con Tur, i quali, a una voce, mi chiesero se avessi obbedito ai loro ordini. Risposi a Sirtori di sì e a Tur di no. Quest'ultimo voleva fare e voleva dire, ma io mi tolsi subito d'impiccio, dichiarando in buona lingua toscana che non avevo saputo dividermi in due ed essere, nel tempo stesso, agli avamposti e al castello. Sirtori e Tur cominciarono a ricambiarsi qualche parola un po' agra, ma uno sguardo di Garibaldi li chetò in un baleno. Tosto si diè mano ad apparecchiar la mensa, sulla quale, per provvidenza di Fruscianti, comparvero un cacio di Sardegna e qualche pane e un canestro di baccelli e due anfore di terra piene di vino bianco. La cena era magra e nessuno se ne appagò, tranne il generale, che la disse sontuosissima, lodando a cielo i baccelli che erano la sua passione. «Che volete di meglio?» diceva. «Per me camperei a baccelli, e se poi ci fosse chi pigliasse a mantenermi a gran turco fresco cotto nel latte, che gli americani del sud chiamano mazzamorra, farei scritta con lui per tutta quanta la vita». Nessuno di noi lo contraddisse, ma tutti in cuor nostro maledivamo la prima cena siciliana, rammaricando che i marsalesi ci avessero accolto su per giù, come si accolgono i cani in chiesa.